in primo piano. Buongiorno a tutti da Giulia Crivelli, bentornati alla rassegna stampa di Radio 24. Iniziamo dal Corriere della Sera, come sempre il titolo principale, anche se è una pagina un po' composta come un mosaico, però il titolo principale è "Lo spread ora ci dà respiro", quindi un titolo economico. Infatti, come avete sentito, lo spread è sceso sotto quota 250 e poi ci sono le altre due notizie, più entrate fiscali ma anche la salita del debito pubblico. Ma dalla prima pagina del Corriere della Sera vi segnalo un articolo di Sergio Rizzo, che poi occupa l'intera pagina 6, che si intitola "I campioni nel risico dei doppi incarichi". Ecco, Alessandro Milan la definirebbe un po' una notizia da mani sul volante, perché Sergio Rizzo torna sulla questione che più governi hanno cercato di risolvere, l'ultimo è stato il governo Monti, dei doppi, se non tripli, quadrupli e anche di più incarichi di, appunto, per politici che sommano incarichi tutti retribuiti naturalmente. Allora vi leggo le prime righe. Chi deve stare nelle società partecipate se non gli amministratori? Poco male se poi i controllori diventano anche controllati. Questione di punto di vista. Ma questa è l'Italia, dove in un amen si può diventare collezionisti di poltrone pubbliche senza che ci sia una scadenza. E a pagina 6, appunto, vi dicevo, l'articolo lunghissimo di Sergio Rizzo, perché purtroppo i campioni, appunto, del doppio incarico, i collezionisti di presidenze CDA, così li definisce Sergio Rizzo, sono veramente tanti. Quelli che lui sceglie di mettere nella fotografia che illustra l'articolo sono Vincenzo De Luca, sindaco e viceministro, Mario Mantovani, assessore in Lombardia e senatore, Andrea Monorchio, presidente di Consap e capo dei revisori di Fintecna e Telespazio, e Vincenzo Fortunato, guida investimenti immobiliari italiani, e altri due incarichi. Vi leggo l'ultima parte dell'articolo di Sergio Rizzo. Nessuno tuttavia potrà mai toccare le vette raggiunte dal presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua. Quando è stato nominato dal governo di Silvio Berlusconi nel 2008, occupava una quarantina di poltrone, pubbliche e private. Adesso, con tutto quello che ha da fare dopo la fusione fra l'INPS e l'INPTAP, gliene sono rimaste 15. Ma che poltrone! C'è fra le tante la presidenza della società di gestione di fondi immobiliari Dea Fimit, c'è la vicepresidenza di Equitalia, c'è la presidenza dei collegi sindacali di ADR Engineering, Acquadrome e Eurtel Tesoro. Ci sono gli incarichi da revisore delle autostrade, Coni Servizi e Loquendo, società del gruppo Telecom. Dulcis in fundo c'è pure un posto da direttore generale all'ospedale israelitico di Roma. Dalla prima pagina del Corriere della Sera vi segnalo anche un editoriale di Anna Meldolesi sulle ultime due gravissime violenze alle donne, l'avete sentito nel GR, che si sono una scoperta ieri e una si è proprio svolta ieri. Uno è l'omicidio della donna che è stata trovata nella macchina del suo assassino a Verona, e l'altra è la donna sfigurata dall'acido all'ospedale di Genova. L'editoriale si intitola "Luoghi comuni che non aiutano a fermare una strage". Non possiamo considerare la questione dei femminicidi archiviata. Una volta fatte le leggi, bisogna trovare le risorse, applicarle e migliorarle. Tra l'altro, la legge, aggiungo io, sul femminicidio non è neppure, deve essere ancora, sappiamo, deve essere ancora poi approvata, e succederà probabilmente dopo la pausa estiva del Parlamento. Ma vi leggo una parte dell'editoriale di Anna Meldolesi, che continua a pagina 17. Non sappiamo con esattezza che numero sia Lucia Bellucci nella lista sempre troppo lunga delle donne uccise nel 2013. La polizia tiene il conto degli omicidi in cui una donna è uccisa in quanto donna, definizione più ampia del femminicidio per mano di un partner attuale o passato, ma la statistica non è ancora pubblica. I casi di violenza domestica sembrano più numerosi del solito in questa torrida estate, ma si tratta di un errore di prospettiva. Siamo noi che prestiamo finalmente attenzione. La stabilità che registriamo non rassicura, al contrario deve preoccupare. I dati, ancora in fase di elaborazione, indicherebbero che oltre il 50% delle donne italiane che vengono uccise muore per mano di chi le doveva amare, una percentuale addirittura superiore a quella indicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per i femminicidi nel mondo, che è del 38%. Quindi sarebbe un altro triste primato italiano. Dal Corriere della Sera vi segnalo un intervento di Pietro Ichino, il giuslavorista, sulla questione delle pensioni d'oro, di cui molti si stanno occupando perché sono state pubblicate nei giorni scorsi, settimana scorsa, le più alte, le 10 più alte dal Ministero del Lavoro. L'intervento di Pietrucchino inizia così. Caro direttore, nei giorni scorsi il Corriere ha dato conto dettagliatamente di alcuni trattamenti pensionistici davvero impressionanti, molte decine di migliaia di euro al mese. Di fronte a notizie come queste, l'uomo della strada, che considera la pensione soltanto una forma di assistenza, rimane attonito e si chiede come queste pensioni possano essere state liquidate e perché esse possono essere mantenute in vita anche in un periodo di vacche magrissime come quello che stiamo attraversando. La realtà è che ci sono pensioni d'oro di due tipi molto diversi fra loro. Qui è una questione tecnica in cui si addentra Pietrucchino, però per quanto complicata e forse potremmo dire quasi noiosa sia la spiegazione, in realtà è necessaria perché per cambiare queste pensioni d'oro, e tutti sono d'accordo sul fatto di cambiarle, purtroppo non basta l'indignazione, ci vuole una legge ad hoc perché appunto è una questione complicata. E allora Pietrucchino spiega che insieme a Giuliano Cazzola e René Tinagli ha appunto elaborato una proposta per cambiarla e conclude: il governo Letta avrebbe tutto da guadagnare nel farla propria e nel farla camminare in fretta. Sulla stessa questione, le pensioni d'oro, vi segnalo un intervento di un altro giuslavorista sulle pagine interne di Repubblica, pagina 29, Tito Boeri. E ve ne leggo una parte. È molto lungo anche qui l'articolo, ma perché, ripeto, è una questione complicata che tutti hanno l'interesse a risolvere, ma che non è così facile. Non si risolve per decreto, perché poi le pensioni, come spiegava anche uno dei pensionati d'oro sulla stampa qualche giorno fa, sono purtroppo dei diritti acquisiti, non è facile emendarle. Si parla di una patrimoniale, si parla di altri meccanismi. Io spero che si trovi un meccanismo, però appunto va trovato in un modo il più giuridicamente trasparente e inattaccabile possibile. Scrive Tito Boeri. Federico De Rosa sul Corriere della Sera del 9 agosto scrive che Mauro Sentinelli, colui che guida la classifica dei top 10 delle pensioni d'oro, oggi incassa grosso modo lo stesso che percepiva da direttore generale di Telecom Italia. Non sappiamo nulla della carriera di Sentinelli, ma la domanda da porsi non è quanto fosse il suo stipendio sul finire della carriera. Ciò che conta è quanto l'ex manager di Telecom ha effettivamente versato all'INPS durante la sua vita per meritarsi una pensione che a 57 anni, quando è andato in pensione, valeva complessivamente quasi 20 milioni. È come se lo Stato italiano lo avesse reso proprietario di un immobile del valore di un quinto di Villa Belvedere a Macherio. Ogni pensione calcolata in Italia con un metodo diverso da quello contributivo, quello che oggi viene praticato a tutti i contributi versati dai lavoratori italiani, attribuisce prestazioni superiori ai contributi versati in termini attuariali, attribuisce prestazioni superiori a quanto pagato e accantonato. Questo era l'articolo su Repubblica, vi ripeto, a pagina 29, quindi due giuslavoristi, Pietrucchino sul Corriere della Sera e Tito Boeri sulla Repubblica, intervengono sulla questione delle pensioni d'oro e suggeriscono al governo dei modi per finalmente cambiarle. Dalla pagina 35 del Corriere della Sera, visto che parliamo di brutali omicidi da parte di uomini, di compagni, ex compagni, mariti alle loro donne, vi segnalo il caso di Bertrand Cantà. Vi ricorderete, aveva ucciso nel 2003 Marie Trintignant, figlia di Jean-Louis Trintignant, l'attore francese. In realtà poi è stato scarcerato pochi anni dopo, nel 2007, libertà condizionata nel 2007, e ora è di nuovo accusato per aver istigato al suicidio l'ex moglie che lo aveva accolto all'uscita dal carcere, ma che si è suicidata nel 2010. Cantà è la morte dell'ex moglie, accuse di istigazione al suicidio. Ci sono infatti delle registrazioni dell'ex moglie di Cantà, Cristina Radì, ex moglie perché lui l'aveva lasciata proprio per Marie Trintignant, che poi ha ucciso a botte, e c'è questa registrazione, e l'avvocatessa Yael Melul, esperta di violenze coniugali, ora vuole appunto riaprire il processo e muovere nuove accuse a Bertrand Cantà, che ha 49 anni attualmente, è un cantautore. Tra l'altro in settembre uscirà il suo nuovo album, che è molto atteso, un album da solista. Visto che l'apertura del Corriere della Sera e di molti altri quotidiani è economica, passiamo subito al Sole 24 Ore. Anche in questo caso il tema è lo spread, quindi il titolo principale è Spread ai minimi da 2 anni. Alle pagine 2 e 3 del Sole 24 Ore ci sono numerosi approfondimenti su questo dato, con due analisi: una di Moria Longo, la mini ripresa con tanti se che restringe la distanza, e la ripresa del rendimento dei BTP, e poi l'analisi di Isabella Bufacchi, il rendimento che piace agli investitori internazionali. Due pagine intere appunto per capire meglio questa questione dello spread, un termine che nell'ultimo anno è entrato un po' nel linguaggio comune, ma è forse ancora difficile capire perché sia così importante questo spread, che, lo ricordiamo, è il differenziale tra il Bund tedesco, cioè i titoli di Stato tedeschi, e i BTP italiani. Il 9 novembre del 2011, ricorda il Sole 24 Ore in prima pagina, aveva raggiunto il massimo 575 punti base. Capite che ora che è sceso sotto il 250 è un bel traguardo. Ma dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo l'importante aggiornamento sulla questione Ligresti, che, sapete, dico sempre, è importante seguire perché è un fatto senza precedenti. Il 17 di luglio l'intera famiglia di imprenditori è stata arrestata e le inchieste naturalmente proseguono. Ieri la Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 250 milioni. Sono stati bloccati alberghi di lusso, immobili, conti correnti e polizze assicurative. Trovate la notizia anche sugli altri giornali, non con questa evidenza. La cronaca è a pagina 23 a cura di Stefano Elli, e poi ci sono due approfondimenti. Uno, l'hotel e la mafia russa. Infatti il Golf Hotel di Madonna di Campiglio, ci racconta Stefano Elli, è stato sequestrato ieri insieme ad altri tre grandi alberghi riconducibili ai Ligresti. Era l'albergo dove era stato arrestato il boss della mafia russa, Yuri Essin. Una storia appunto che di intrighi internazionali interessante. L'altro approfondimento, anche questo continua a pagina 23, richiamato in prima pagina, di Laura Galvani: Unipol chiede i danni. La settimana è quella di Ferragosto, momento chiave per il turismo del paese. Proprio in questa fase cruciale è scattato da parte del giudice Silvia Salvadori, su richiesta dei PM, il sequestro di 5 hotel che fanno capo a Fondiaria Sai. Gli inquirenti hanno individuato Pegasus S.p.A. scavando tra le carte che Giulia Maria Ligresti teneva in casa. Questo Pegasus è tra l'altro la società in cui erano, tra virgolette, nascosti gli immobili di famiglia. Tutti gli approfondimenti a pagina 23 del Sole 24 Ore. Continua la doppia serie di approfondimenti del Sole per l'estate, quello dedicato al portafoglio oggi è sui mercati emergenti con una guida antibolla, e invece quello dedicato alla casa è ancora, torniamo sul tema dell'acquisto, era già stato toccato ieri con la famosa APE, la certificazione di energetica. Oggi c'è un nuovo approfondimento sui nodi da scegliere quando nel momento più importante, cioè quello dell'acquisto, e anche tutti i problemi legati al rogito. C'è il solito domande e risposte, e poi un lungo articolo di Emiliano Sgambato, che è uno dei nostri colleghi che si occupa anche del supplemento Casa 24, che viene allegato al Sole 24 Ore ogni giovedì. In questo momento è in vacanza, ma naturalmente tornerà dopo la pausa estiva. Ora lasciamo un attimo lo spazio all'aggiornamento meteo e ci risentiamo subito dopo. L'aggiornamento meteo. Aspettate, in regia non mi stanno ascoltando. Allora, intanto che sono le 7:29, doveva essere a quest'ora, ma c'è stato così una piccola dimenticanza. Allora continuiamo dalla prima pagina della Repubblica, che invece ha un titolo politico: Berlusconi, la risposta del Colle. Oggi o domani la nota di Napolitano, c'è questo scontro sull'incandidabilità e appunto questa nuova ipotesi di un intervento diretto del Quirinale, che avrebbe pronte le sue valutazioni dopo il pressing del PDL per salvare il Cavaliere. Dalla prima pagina della Repubblica, che poi leggeremo più tardi, vi segnalo due editoriali: uno di Michela Marzano sulla questione della donna uccisa ieri, e l'altro di Bernardo Valli, l'inviato al Cairo, che ci racconta cosa sta succedendo in Egitto. In primo piano. Rieccoci sulle prime pagine dei giornali. Eravamo alla Repubblica con l'intervento in prima pagina, che poi continua a pagina 13, di Michela Marzano, filosofa e anche parlamentare del PD da questa legislatura. Il titolo è "Non basta un decreto". Vi leggo le prime e le ultime righe. Il corpo di Lucia Bellucci è stato trovato nell'auto del fidanzato. L'ennesimo cadavere, l'ennesimo femminicidio. Tra l'altro Vi segnalo che intorno all'articolo di Michela Marzano, a pagina 13, ci sono tanti dei volti delle donne uccise quest'anno. E poi su Repubblica.it, sul sito di Repubblica, viene anche segnalato uno speciale dove probabilmente sono ancora di più i volti delle, appunto, delle donne uccise quest'anno dai compagni, ex compagni, mariti, eccetera. Vi leggo appunto le ultime righe. La violenza non si può eliminare del tutto, ma la si può e la si deve contenere. Per farlo la chiave è e sarà sempre l'educazione, per far capire a tutti e tutte, fin da piccoli, che il proprio valore è intrinseco e non strumentale, che ogni persona, a differenza delle cose che hanno un prezzo, non ha mai un prezzo, ma una dignità. Che la dignità non dipende da quello che gli altri pensano di noi, da quello che gli altri ci dicono meno, da quello che gli altri ci fanno. Non si può combattere la violenza se non si educano le donne alla consapevolezza del proprio valore e della propria libertà. Esattamente come non si può combattere la violenza se non si educano gli uomini alla consapevolezza del valore e della libertà altrui. E poi vi dicevo il reportage di Bernardo Valli dall'Egitto, dove è difficile capire cosa stia realmente succedendo, anche se le immagini dei manifestanti che hanno invaso Piazza Tahrir e altri luoghi al Cairo ci dicono qualcosa. Bernardo Valli cerca di raccontarci dall'interno, perché lui è lì al Cairo, che cosa sta succedendo sulle barricate con gli islamisti in attesa del grande attacco. La dichiarazione che ha raccolto più sovente Bernardo Valli è: noi difendiamo la democrazia. Infatti, i manifestanti sono appunto. Che sono manifestanti promossi, il presidente deposto dell'Egitto, sono appunto convinti che il ruolo di queste manifestazioni, che il governo attuale ha più volte minacciato di sgomberare, probabilmente e la cosa sicuramente comporterebbe feriti e forse anche vittime, ebbene loro pensano che in realtà questa sia una prova, appunto un momento in cui difendono, cercano di difendere la democrazia. Le forze armate, spiega Bernardo Valli, ancora non intervengono, anche se, ripeto, avevano annunciato l'intervento nei giorni scorsi, per ora logorano i manifestanti tagliando acqua e luce, ma è una tattica fragile. Dalla prima pagina della Stampa vi segnalo il titolo, anche qui è politico: Berlusconi, le risposte del Colle, c'è questa attesa per la nota del Quirinale, ma vi segnalo due articoli, uno di Giovanna Zincone, l'integrazione che serve all'Italia, e si torna sul tema dell'immigrazione, e l'altro, molto originale, che accende i fari sul Tibet, di Ilaria Maria Sala, che ci spiega come il Tibet, da paradiso dei buddisti, sia diventato un paradiso fiscale. Vi leggo però le prime righe dell'articolo di Giovanna Zincone, che poi continua a pagina 29 della Stampa. L'incessante mancanza di rispetto che investe la ministra Kyenge non nuoce solo a lei. Il dileggio e il disprezzo che piovono dall'alto, da importanti cariche dello Stato, da leader politici, compreso il pugnace Bossi, da accademici e editorialisti, legittimano l'insulto stradale, l'aggressione spicciola. Espongono a un maggior rischio non solo le persone di origine immigrata che vivono in Italia, ma anche chi si trova nel nostro paese come turista o come uomo d'affari straniero, se gli capita di avere una fisionomia poco europea. E l'articolo, come vi dicevo, continua a pagina 29, è molto lungo ed è molto interessante, però, perché appunto al di là della cronaca, al di là degli slogan, forse invita tutti a pensare a questa questione dell'immigrazione, dell'esasperazione anche, che sicuramente causa l'immigrazione in alcuni luoghi, invita a pensare come in realtà l'obiettivo sia arrivare all'integrazione, quella che Giovanna Zincone definisce l'integrazione che serve all'Italia. Conclude quindi il suo articolo: abbiamo assistito a fallimenti nei percorsi di integrazione anche in paesi a cittadinanza facile come la Francia o la Gran Bretagna. Purtroppo non esistono ricette facili per integrare. C'è però una ricetta facile per sabotare l'integrazione e aumentare i conflitti interetnici, esibire disprezzo culturale nei confronti degli immigrati. Se al rispetto umano non ci spinge un'auspicabile sensibilità, ci spinga almeno il calcolo razionale dei danni che fomentare i conflitti comporta. Vi dicevo, l'articolo sul Tibet, raccontato da Ilaria Maria Sala, corrispondente a Hong Kong, il Tibet si ricicla da paradiso spirituale a paradiso fiscale. Infatti le tasse sono state ridotte al 15% per gli imprenditori e così arrivano i cinesi e i tibetani diventano minoranza. Una storia davvero curiosa. Il Messaggero invece torna sulla questione dell'IMU, che non è affatto risolta, lo sappiamo, quindi c'è questa approfondimento sulla proposta del PDS con la tassa che includerà i vari servizi, che è stata ribattezzata RES, non TARES, ma che include la TARES, che sarebbe la nuova tassa sui rifiuti. E la Scure, poi il Messaggero, ricorda anche, naturalmente lo trovate anche sugli altri giornali, la Scure del governo sugli aerei di Stato e l'auto blu, con le dichiarazioni fatte dal Premier Letta ieri. Ci saranno in questo modo 50 milioni di euro di risparmi destinati soprattutto alla prevenzione e a combattere gli incendi. Ma dalla prima pagina del Messaggero vi segnalo un articolo di Oscar Giannino: la certezza dei tempi, priorità per chi investe. Questo torna sulla questione della giustizia da un punto di vista ancora diverso, non quello strettamente di cronaca processuale che riguarda Berlusconi, però, e si parte naturalmente da quello nell'articolo di Giannino, però c'è quest'altro problema del fatto che le aziende, sia italiane che straniere, lamentano sempre la mancanza di questa certezza dei tempi. Naturalmente vale anche per le persone, ma anche noi non sappiamo mai quanto può durare un processo a un normale cittadino. Oscar Giannino però si concentra in questo articolo soprattutto sul punto sull'incertezza dei tempi, che diventa un problema per chi deve investire. Dalla prima pagina del giornale vi segnalo il titolo, che è la ragnatela PM giudici per incastrare il Cavaliere, quindi ancora la questione giudiziaria che riguarda Berlusconi, ma soprattutto vi segnalo un editoriale di Vittorio Feltri che torna invece sulla questione dei gay, dell'omosessualità, prendendo spunto naturalmente dal suicidio del ragazzo di 14 anni che si è ucciso a Roma perché sbeffeggiato, perché appunto palesemente omosessuale. Accettare i gay più della legge serve il tempo, scrive Vittorio Feltri. Della vicenda si è già parlato tanto, forse troppo, ma non è stato detto tutto. Alludo al ragazzino che si è gettato dal terzo piano a Roma perché avvilito dagli sfottò dei compagni di scuola e degli amici del doposcuola a causa della sua evidente omosessualità. Immaginando le sofferenze che hanno portato a un simile suicidio, è impossibile non commuoversi e non pensare a come evitarle in altri giovani allo scopo di prevenire analoghe tragedie. Accelerare l'approvazione della legge anti-omofobia? Molti sostengono che sia questa la strada da percorrere per eliminare, punendo, le discriminazioni di carattere sessuale. L'articolo continua a pagina 12 e ve ne leggo un'altra parte, ma lo trovo molto interessante perché poi viene appunto da un uomo di centrodestra e purtroppo spesso, se dobbiamo fare una statistica, è dal centrodestra che arrivano i commenti più spiacevoli sugli omosessuali. La questione non è giuridica, bensì culturale. L'accettazione degli altri, a prescindere dalla loro personalità, dalle loro tendenze sessuali e politiche o dal loro aspetto, si impara prevalentemente in casa, a scuola e sui libri. E conclude Vittorio Feltri: non sarà una legge che possederà stappare una bottiglia di champagne quando un genitore apprende con disappunto che il figlio è gay. Calma e gesso, l'evoluzione cammina sulle nostre gambe. Dalla prima pagina di Libero invece vi segnalo un'interessantissima inchiesta, che è il titolo anche di Libero, sulla sanità. I 50 migliori ospedali. In esclusiva lo studio di Agenzia per i Servizi Sanitari e Ministero sulle strutture più efficienti e quelle peggiori per le varie patologie, con più di una sorpresa. E qui sono ben tre pagine all'interno, 13, 14 e 15, e così scopriamo appunto i 10 migliori e i 10 peggiori ospedali per le diverse patologie. Per esempio, vi leggo quella la classifica che riguarda l'infarto: con la mortalità a 30 giorni dal ricovero, la più bassa è nell'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto delle Marche. E vi segnalo che tra i primi 10 ospedali che appunto curano meglio l'infarto non ce n'è nemmeno uno in Lombardia, che molto spesso si vanta di essere la regione con l'eccellenza maggiore. Però c'è nella classifica dei 10 peggiori, anche qui c'è una sorpresa, perché quello con il rischio maggiore è l'ospedale San Bassiano a Bassano del Grappa. Quindi, insomma, tante altre sorprese. Le patologie prese in esame da Libero sono l'ictus, il bypass alla aorta, la colicistectomia, cioè l'asportazione della colecisti, e la frattura del femore. Dalla prima pagina del Fatto Quotidiano vi segnalo invece un'inchiesta, in un certo senso anche qui, su quello che il Fatto Quotidiano chiama il linciaggio di Esposito, menzogna per menzogna. Menzogna per menzogna. L'articolo è di Marco Travaglio e poi all'interno Marco Lillo. prende in esame tutto quello che il giornale ha scritto su Antonio Esposito. Vi leggo le prime righe. Dopo la condanna di Silvio Berlusconi a 4 anni di carcere, il giornale di Alessandro Sallusti ha dedicato una ventina di pagine al 72enne presidente della sezione feriale della Cassazione. Il 3 agosto parte Stefano Lorenzetto con un articolo basato sul suo ricordo di una cena del 2009 con il giudice Antonio Esposito. Così infangava Berlusconi il giudice che l'ha condannato. L'articolo di Marco Lillo poi appunto continua in questo excursus degli articoli che il giornale ha dedicato a Antonio Esposito. La prima pagina del manifesto invece ha un titolo ancora diverso che parla di una questione che anche nei giorni scorsi anche gli altri giornali hanno trattato, ma nessuno l'ha messa in copertina con questa enfasi, ed è la decisione del governo israeliano di costruire 1200 nuove abitazioni negli insediamenti illegali di Gerusalemme Est e della Cisgiordania. E il titolo che sceglie il manifesto è Cemento fuso, perché secondo il manifesto questa iniziativa del governo israeliano, il manifesto non è l'unico a pensarlo, però ripeto, è l'unico che torna sulla questione in questi giorni, questa iniziativa appunto stronca sul nascere la ripresa dei negoziati di pace con i palestinesi. L'approfondimento poi a pagina 3. A pagina 4 invece segnalo un articolo il cui senso tutto sommato è molto simile a quello di Vittorio Feltri sul giornale. Il titolo dell'articolo è Va bene la legge, ma il problema resta l'educazione. Anche qui la questione è quella dell'omofobia. Dopo il suicidio a Roma di un 14enne, parlano le associazioni dei genitori gay di Italia e Spagna. E a pagina 4, appunto, questo approfondimento del Messaggero, scusatemi, del manifesto, e con la parola che appunto passa a Anna Ceravolo dell'Associazione Genitori di Omosessuali e alla sua equivalente spagnola che è José Mellinas. Dalla prima pagina dell'Unità, l'avete sentito nella controcopertina del GR, invece un approfondimento sulla campagna di Forza Italia. Il titolo dell'Unità è Forza Italia torna senza cavaliere. In realtà abbiamo sentito che non è proprio così, perché sui manifesti c'è sì Berlusconi, solo occupa uno spazio forse minore di quello che ci aspetteremmo. Dalla prima pagina dell'Avvenire, come è giusto che sia, naturalmente l'approfondimento più ampio, più completo sul mistero sulla sorte di Dall'Oglio, il padre gesuita che era in Siria da tantissimi anni e che è scomparso da molti giorni. Ieri si sono rincorse le voci su una sua morte, il Vaticano ha smentito, però di fatto non si sa ancora quale sia la sua sorte. Poi, sempre dalla prima pagina dell'Avvenire, la settima puntata dell'inchiesta che l'Avvenire sta conducendo sulle mamme in affitto, sugli uteri in affitto, soprattutto delle donne nei paesi più poveri che quindi magari accettano anche questa di dare appunto il loro utero per pochissimi soldi, è proprio come una forma di sostentamento al reddito, sicuramente molto crudele e discriminatoria. Eravamo sulla prima pagina dell'Avvenire, da cui vi segnalo un approfondimento sulle presidenziali che si terranno in novembre in Cile. Michela Coricelli ci racconta come la sfida sarà tra due donne, Michelle Bachelet e Evelyn Mattei. Sfida tra Damas per guidare il Cile, due donne che si sfidano per la poltrona presidenziale, figlie di generali uniti dall'amicizia, poi separati dalla dittatura di Augusto Pinochet. Anche qui una storia così di cui ancora non parliamo perché mancano alcuni mesi, molto interessante però cominciare a pensare a cosa succede in Cile, che viene definito il giaguaro dell'America del Sud. Dalla prima pagina dell'Avvenire vi segnalo la rubrica di Anna Foa, che c'è tutti i giorni. Oggi è dedicata, sostanzialmente parte da un libro di George Steiner, l'ultimo libro di George Steiner, I libri hanno bisogno di noi, è molto interessante, si intitola la rubrica che si chiama Tracce, La forza dei libri. Siamo noi che abbiamo bisogno dei libri o i libri che hanno bisogno di noi? Questa è la domanda che ci rivolge il grande critico inglese George Steiner. Che i libri abbiano bisogno di lettori e che la funzione del libro sia quella di portare la parola scritta al lettore è evidente, ma nelle formulazioni di Steiner c'è qualcosa di più. Il lettore mette in opera una collaborazione con l'autore in un processo circolare di osmosi in cui il lettore rivolge domande alla parola scritta, la interpreta, la recita e la modula nel caso di teatro o di poesie. È un libro interessantissimo che consiglio a tutti. Tutte le persone alle quali l'ho regalato mi hanno detto che l'hanno trovato molto interessante. Dalle pagine interne vi segnalo un'analisi del Corriere della Sera, pagina 21, sui dati dell'Istat, circolano meno auto e più ecologiche. Sappiamo, abbiamo sentito nei mesi scorsi, anche nelle settimane scorse, che vengono vendute meno auto. È un effetto della crisi sicuramente, però è anche una maggiore consapevolezza che non spostarsi in auto, soprattutto in città, conviene. Secondo Legambiente, la politica deve sostenere questa tendenza. E su questo vi segnalo dalle pagine interne del giornale, ma ci sono anche altri quotidiani come il Corriere che ne parla. La questione della bike sharing a Milano, c'è stato un boom degli abbonati, queste biciclette gialle che chi viene a Milano ormai vede dappertutto. C'è un boom di iscrizione al servizio di noleggio bici del comune. Tra l'altro veramente conviene, perché pensate che abbonarsi costa solo 26 euro, c'è stato uno sconto ultimamente di altri 10 euro per un anno intero. Naturalmente è anche un effetto della crisi, però insomma ben venga questa scelta ecologica dei milanesi. Tra l'altro Milano è la città ideale per pedalare, lo dico da ciclista perché è praticamente piatta. Non so se ricorderete, sempre a proposito di Milano, ieri abbiamo citato l'intervista a Stefano Bruno Galli che raccontava al giornalista del Corriere che sta lavorando insieme a Maroni a questa nuova fisionomia della macroregione. Oggi gli risponde Umberto Ambrosoli, che era candidato alla presidenza della regione, poi ha vinto Maroni, e risponde un cantone cisalpino: la Lega ormai è senza idee. In realtà, però, sulla Padania, che è il giornale della Lega, c'è un ulteriore approfondimento su questa idea della macroregione, e a pagina 2 c'è un perché non era facilissimo capire, appunto, perché l'articolo di ieri del Corriere era molto stringato, ma qui il professor Stefano Bruno Galli, che sta elaborando il modello politico-amministrativo della macroarea del Nord, spiega meglio che cosa intende. È una proposta di copiare il meccanismo tedesco. Infatti dal 2020, l'abbiamo letto forse nei giorni scorsi, Berlino accorperà molti Länder, che sono l'equivalente delle nostre regioni, con i bilanci in debito. Quindi sulla Padania, a pagina 3, abbiamo detto, trovate un approfondimento su questa questione che riguarda sicuramente tutti i lombardi, ma non solo, perché potrebbe essere un modello per la riforma delle regioni e anche delle province. Sempre in tema di leghisti e delle idee concrete che si possono avere oltre agli slogan, ritorno su questo tema perché nei giorni scorsi un ascoltatore mi aveva un po' accusato di citare sempre la Padania con delle frecciatine. Non è questo il mio intento, cioè io a volte esprimo il mio disappunto per dei titoli un po' troppo violenti secondo me, però in realtà la Lega ha sicuramente il merito, e probabilmente continuerà a averlo, di porre il problema su questioni molto pratiche. Un campione di questo, secondo me, è il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Lo abbiamo citato anche nei giorni scorsi sulla questione dell'immigrazione. Oggi sulla stampa interviene sulle questioni fiscali e dice: carcere per chi evade, una nuova imposta unica, altrimenti il sistema collassa. Sappiamo infatti che uno dei risvolti dell'IMU, di cui forse non si parla abbastanza, è che se venisse cancellata, i primi ad avere i problemi sarebbero i comuni, e quindi probabilmente in tanti dicono che ci sarebbero poi altre tasse, perché se i comuni non hanno i soldi dell'IMU non potrebbero garantire tanti servizi se non introducendo nuove tasse. Dalla pagina interna del Messaggero vi segnalo invece, a proposito di, appunto, di temi un po' estivi, ma anche che magari troviamo solo su un quotidiano e non un altro, l'articolo sulle orme dell'orso. Due volte alla settimana gruppi di appassionati si inerpicano lungo i crinali del Parco d'Abruzzo, uno dei parchi nazionali più belli che abbiamo in Italia, dove appunto ci sono gli orsi marsicani. Lo fanno questi escursionisti per osservare questo grande mammifero marsicano, che proprio ora va a caccia di golose vacche. Gli orsi sono golosi, non solo nell'immaginario, ma effettivamente è proprio così. Torniamo al Fatto Quotidiano, che sta tutti i giorni, ormai da parecchi giorni, aggiornandoci sulla questione delle grandi navi che entrano nella laguna di Venezia, addirittura si avvicinano veramente a Piazza San Marco. Anche oggi c'è una foto impressionante, perché da una calle veneziana si vede questo colosso del mare così pericolosamente vicino appunto a Piazza San Marco. Tutto il mondo dice: tenete quei mostri fuori da Venezia. L'articolo di Gian Piero Gramaglia, Vengono citati anche tre articoli apparsi su Wall Street Journal, Times e Independent, che tutti e tre questi quotidiani, uno americano e gli altri due inglesi, stigmatizzano questa questione delle navi da crociera che entrano così vicine ai tesori di Venezia. Il problema naturalmente è che le navi da crociera promettono, quando vendono le loro crociere, questo avvicinarsi alla laguna di Venezia, e il problema è anche che un po', se vogliamo, miopisticamente, quando poi i turisti scendono, garantiscono acquisti ai negozianti di Venezia, o magari mangiano lì. Ma naturalmente bisognerebbe, questo suggerisce l'articolo del Foglio, davvero fare una scelta chiara e netta, rinunciare magari a questi guadagni così di brevissimo respiro per salvaguardare Venezia, perché queste navi, oltre al pericolo tremendo di una vicenda come quella della Costa Crociere vicino all'isola d'Elba, comunque causano degli spostamenti d'acqua che a Venezia non fanno bene. Questo è, credo, puro buon senso, tutti ci possiamo arrivare. Quindi una questione che il Fatto Quotidiano, meritoriamente, secondo me, sta seguendo, non così come un lampo estivo, ma la sta seguendo giorno per giorno. Dalla pagina interna di Avvenire un altro curioso articolo su Bob Dylan. Quest'anno Blowing in the Wind, forse la sua canzone più famosa, compie 50 anni. È nata come spiritual, ci racconta Roberto Beretta a pagina, aspettate che vi dico anche il numero esatto, a pagina 19 di Avvenire. Ci racconta: era nata come uno spiritual ed è stato un simbolo di generazioni e di giovani. In realtà ci sono molte citazioni bibliche in questa canzone di Bob Dylan. E poi l'avete sentito nel GR, è previsto per oggi l'incontro in Vaticano tra le nazionali di Italia e Argentina, per un'udienza nella Sala Clementina con il Papa. L'articolo di Avvenire: il Papa abbraccia il calcio. Oggi le nazionali in udienza nella sala, domani l'amichevole in omaggio a Bergoglio, che è un grande appassionato di calcio, abbiamo scoperto. A proposito di calcio, ho fatto il mio coming out qualche giorno fa, nel senso che io sono un interista, e perciò vi segnalo, meglio non perciò, vi segnalo comunque, come spesso faccio, la prima pagina della Gazzetta dello Sport, che oggi è dedicata a Eto'o, interista molto rimpianto degli interisti perché era andato a giocare con l'Anzi. Eto'o vuole l'Inter, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport. Samuel gradirebbe tornare in nerazzurro, ma vorrebbe un triennale. L'Anzi sarebbe appunto disposto a liberare Eto'o. Adesso gli ostacoli sono l'ingaggio, perché in questo momento questo calciatore prende 10 milioni netti, e il Chelsea di Mourinho, che lo vorrebbe. Tantissimi altri aggiornamenti sul calciomercato e anche sugli infortuni. Per esempio Balotelli avrebbe un ginocchio gonfio, e quindi c'è un allarme Champions. Dal Foglio invece vi segnalo un articolo molto interessante sulla questione delle carceri. Ieri è arrivato anche un CNN Breaking News Alert sui telefonini. La CNN avverte appunto delle notizie più importanti. Questa è considerata una notizia importante, cioè anche l'America si interroga sul sovraffollamento delle carceri. E il titolo dell'articolo di Mattia Ferraresi sul Foglio è: Seppure l'America cambia le prigioni, con un calcolato sussulto garantista, Obama mette mano agli eccessi della politica carceraria. Anche la popolazione carceraria americana, infatti, è enorme, continua a crescere, e non e soprattutto non vengono costruite non sempre le prigio vengono costruite prigioni nuove allo stesso ritmo con cui aumentano i carcerati, e quindi il sovraffollamento. Quindi il procuratore generale Holder modifica le disposizioni sulle pene minime per i reati di droga, per evitare appunto che ci siano troppi nuovi ingressi nelle carceri per reati minori. Vi segnalo dalla pagina invece interna del Foglio un editoriale sempre sull'omofobia, i brutti casi di cronaca e il loro non rapporto con una brutta legge. Il titolo è: Nessuno è al riparo dall'accusa di omofobia. Vi leggo le ultime righe. Il passo successivo sarà emulare la Francia, dove allo studio è una legge che proibirà l'uso di espressioni omofobe su internet e immetterà nelle aule scolastiche una forma di controllo orwelliano sulle coscienze, con tanto di kit di consapevolezza e la contemplazione perfino di una squadra sentinella composta da un insegnante volontario che monitori il livello di omofobia nelle scuole. Roba buona per i regimi antidemocratici, difficilmente per salvare ragazzi in difficoltà. Un'ultimissima segnalazione dalla prima pagina del secolo XIX, il giornale di Genova, che ci racconta come sia scoppiata la guerra agli ombrelloni segnaposto. A Imperia, infatti, nelle spiagge libere vengono lasciati degli ombrelloni da un weekend all'altro per tenere il posto e quelli che invece frequentano le spiagge durante la settimana si oppongono a questa pratica. Era l'ultima segnalazione, ci sentiamo domani, ancora una buonissima giornata da Giulia Crivelli.